Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. E oggi è una puntata strana perché si mischiano due generi apparentemente incompatibili. Stiamo per parlare di una bellissima donna, di una grande attrice, ma anche delle svolte che ha avuto la scienza e la comunicazione negli ultimi decenni. Eh sì, perché noi oggi viviamo circondati da oggetti che funzionano neanche sappiamo come bene, cioè il computer, il tablet, i cellulari, andiamo sui social, twittiamo, postiamo foto, ma non è che abbiamo capito bene come funziona tutto questo fatto. Se dovessimo dire come funziona, probabilmente molti di noi, io per primo, non saprebbero spiegarlo. Come funziona il wifi? Come facciamo a fare miliardi di telefonate tutto il giorno? Beh, se potessimo vedere cosa sta all'altro capo di questo filo immaginario, potremmo forse arrivare molto lontano, addirittura a Hollywood negli anni 40. E a Hollywood non ci troveremmo di fronte a uno scienziato, magari con i capelli in piedi e la barba bianca. Avremmo una visione celestiale, vedremmo una delle donne più belle che siano mai apparse su uno schermo cinematografico. Beh, insomma, ho creato un po' di confusione, ma vi aiuterò a risolvere tutto. Stiamo per parlare di Hedy Lamarr, una donna incredibile, bellissima, passata alla storia per essere stata la prima attrice al mondo a comparire in un film completamente nuda, la prima che ha simulato un orgasmo davanti alla macchina da presa, attrice scandalosa, sei mariti, numerosi amanti, bisessuale. Ma è stata anche una grandissima inventrice, questo non lo sapevate, ha dato vita a una delle intuizioni più sensazionali della storia della scienza moderna. Un'invenzione bellica, un sistema rivoluzionario di guida a distanza per siluri, ideato durante la Seconda Guerra Mondiale, che sta alla base delle comunicazioni wireless. Caprice, your bugle blowing, the cobwebs. Cominciamo a dire che Hedy Lamarr non è il vero nome della nostra protagonista, che si chiama Hedwig Kiessler. Nasce a Vienna il 9 novembre del 14 da una famiglia dell'alta borghesia austriaca, padre direttore di banca, madre pianista, entrambi genitori ebrei non praticanti, e lei che frequenta le migliori scuole di Vienna e segue anche un corso di recitazione, e parte con la prima storia d'amore, una delle prime di una lunghissima serie, con l'attore Wolf Abakreti, il futuro padre di Romy Schneider. Ma non fa solo questo, si iscrive anche a ingegneria, lo fa anni prima del normale perché ha una predisposizione impressionante e viene ritenuta un'allieva dall'intelligenza eccezionale. Insomma, stiamo parlando di una donna veramente fuori dai canoni. Intelligente e bellissima, quindi non sempre un ossimoro, corteggiata, disinibita, fa delle foto osé a seno nudo pubblicate su una rivista. Siamo nel 31 e lei non ha ancora 17 anni. Queste foto attirano l'attenzione del famoso regista tedesco Max Reinhardt, giunto a Vienna per delle audizioni. Lui la definisce la ragazza più bella del mondo, la porta a Berlino per farla lavorare in teatro. Lei abbandona ingegneria con grande disappunto dei genitori e dei professori che avevano intuito il genio che si nascondeva dietro quel bellissimo faccino e quel bellissimo tutto il resto. A Berlino lei lavora a teatro, poi arrivano le prime parti al cinema, prima secondarie, poi nel 1932 viene scelta come protagonista del nuovo film del regista cecoslovacco Gustav Machaty, famoso per aver realizzato tre anni prima un film dal titolo eloquente Eroticon nel 1928-1929. È film che ovviamente aveva fatto scandalo in tutta l'Europa per una storia di sesso e di incesto. Il nuovo film di Machaty si intitola Estasi, segnerà per sempre la vita di Hedy, il primo film al mondo dove un'attrice appare completamente nuda. Ma non solo, è la prima volta che un'attrice mima un orgasmo, 1929, immaginate lo scandalo. Eppure lei sosterrà che non ne sapeva nulla, ascoltate cosa dichiara durante una trasmissione televisiva americana del 69. Well, I didn't know there were zoom lenses. Beh, io non sapevo che esistessero gli zoom, ero una ragazzina. Poi il nudo non era una scena presente nella sceneggiatura, ma si sa, le cose cambiano sul set. Ero una teenager, la troupe stava lontanissima, non immaginavo che riprendessero con lo zoom. Beh, insomma, un po' dura da credere, anche la sua versione sulla scena dell'orgasmo è un po' macchinosa, dirà che il regista l'aveva punta con una spilla mentre la riprendeva e questa smorfia di dolore era stata interpretata diversamente. Noi abbiamo visto i fotogrammi del film, altro che spilla. Sta di fatto che Estasi diventa subito un caso clamoroso. In Germania viene proibito, negli Stati Uniti finisce sotto processo, se ne ordina la distruzione, ma fortunatamente alcune copie si salvano. Una la possedeva Mussolini, si dice che fosse il suo film preferito. E pensate, quando è morto Joseph Goebbels, il ministro della propaganda del Terzo Reich, nella sua cassaforte personale è stata rinvenuta una copia del film. Beh, oggi a vederlo ci fa sorridere, ma per quei tempi si tratta di uno scandalo enorme che regala a Eddie una fama forse discutibile, ma sicuramente immensa. Reduce dal successo di Estasi, Eddie Kistler, quindi non ancora Eddie Lamar, ottiene un ruolo molto importante a teatro, quello della principessa Sissi, che porterà poi alla fama mondiale negli anni 50 Romy Schneider, la figlia del suo primo fidanzato. Questo ruolo è un po' meno chiacchierato, fa sì che Eddie attiri l'interesse di un uomo molto in vista nella Vienna degli anni 30, l'industriale delle armi Fritz Mandl. Lui ha 14 anni più di lei, lo chiamano il re delle munizioni, ma anche il mercante di morte, perché si è arricchito vendendo armi a entrambi i contendenti nella guerra di Spagna, un finanziatore delle milizie fasciste austriache, insomma un personaggio particolare dall'enorme ricchezza e dalle maniere sbrigative. Lui corteggia Eddie per tutta la tournée teatrale e lei acconsente a sposarlo. Lui naturalmente pretende subito che lei smetta di recitare per dedicarsi solamente allo shopping e ai ricevimenti di lavoro che lui organizza in continuazione. Tra gli ospiti di Mandl c'è il suo amico personale Benito Mussolini, ammiratore di Eddie come attrice, e forse anche Adolf Hitler frequenta questa casa, ma lei si stanca presto di questa vita da reclusa, non è innamorata del marito, all'inizio del 37 scappa da casa, lascia Vienna in maniera rocambolesca, si traveste da cameriera, sfugge agli scagnozzi del marito, ripara in Svizzera e va a St. Moritz. La scelta non è casuale, perché lì passano l'inverno gente come Billy Wilder, Leni Riefenstahl, insomma i grandi nomi del cinema europeo del momento. E qui ha una relazione con lo scrittore tedesco Erich Maria Remarque, poi viene a sapere che a Londra Louis Mayer, il capo della Metro-Goldwyn-Mayer di Hollywood, sta cercando talenti cinematografici da portare negli Stati Uniti, e naturalmente lei non ci pensa un secondo, molla Remarque all'istante e si fionda a Londra. L'estate del 37, Mayer, Estasi, l'ha visto e la riceve, ma quello che le dice non è esattamente quello che lei avrebbe voluto sentirsi dire. Con roba del genere a Hollywood non andrai da nessuna parte, mai. Il culo di una donna e di suo marito, non degli spettatori. Tu sei carina, ma io devo tenere presente il punto di vista delle famiglie americane. Non mi piace quello che potrebbero pensare di una ragazza che svolazza per lo schermo a culo nudo. Beh, Mayer è stato piuttosto chiaro, ma lei non si lascia scoraggiare. A settembre il produttore salpa a bordo del transatlantico Normandia alla volta degli Stati Uniti, portando con sé gli attori reclutati. Bene, su quella nave c'è anche lei, non reclutata, ma è pronta a tutto pur di conquistarsi il suo spazio e ottenere un contratto. E ci vogliono 20 giorni di viaggio. Lei è certa che in 20 giorni convincerebbe chiunque a qualsiasi cosa. E infatti ha ragione. Dopo un incontro sul ponte della nave, in cui lui dice: «Oh, Miss Kistler, vedo che oggi ha tutti i vestiti addosso», le cose cominciano ad andare in discesa, perché lei è di una bellezza mozzafiato. Sulla nave catalizza l'interesse di tutti gli uomini e Louis Mayer alla fine capitola, e non sappiamo bene come e perché, ma ascoltate Richard Rhodes, il biografo di Eddie Lamar. Alla fine del viaggio aveva firmato un contratto con Mayer di $600 alla settimana, che sarebbero 3.000 di oggi, con la clausola che imparasse l'inglese, cosa che lei fece subito. La trasformazione di Eddie Kistler inizia già a bordo del Normandie. La priorità di Mayer è il nome. E naturalmente, per ragioni di attualità politica, Kistler non va bene, è troppo tedesco, siamo nel 37. Bisogna trovare qualcosa di più morbido, rotondo, che non ricordi le sue origini teutoniche. E a Mayer viene in mente Barbara Lamar, una bellissima attrice del muto, morta una decina d'anni prima, pensate, di eroina. Eddie Lamar, scritto tutto attaccato, gli suona bene. Eddie Lamar, e chi gli obietta che dare il nome di un'attrice morta possa apparire un po' macabro, lui risponde: sciocchezze, sostituiremo la morte con la vita. Poi dispone che l'immagine di Eddie si allinei con l'idea raffinata che lui ha in mente, quindi le fa comprare nella boutique di bordo abiti di Dior, di Chanel, un set di valigie di Louis Vuitton, e lei ovviamente accetta di buon grado. Insomma, all'arrivo a New York i giornalisti si trovano davanti a una Eddie Lamar che viene immediatamente definita la donna più bella del mondo. Lo sbarco è un trionfo. E l'avventura hollywoodiana di Eddie Lamar inizia con una dieta, 8 kg, affinché l'immaginario americano la percepisca come una figura più snella rispetto allo stereotipo europeo. Poi arrivano i primi film, Un'americana nella Casbah, La signora dei tropici, Questa donna è mia con Spencer Tracy. Il successo è enorme. Nella primavera del 40 esce la prima edizione del fumetto Batman e l'autore Bob Kane, grandissimo ammiratore di Eddie Lamar, dichiara che per l'antagonista di Batman, Selina Kyle, Catwoman, si è ispirato proprio a lei, a Eddie e alla sua bellezza esotica. Intanto la guerra ormai è una realtà, Eddie cerca in tutte le maniere di non apparire troppo straniera, sottolinea le abitudini americane come portare i capelli lunghi senza cappello, mangiare gelati in pubblico, fare passeggiate lunghe, conversazioni telefoniche, cose che le ragazze europee non fanno in America, sì, però è pur sempre un'austriaca. Ascoltate questo spezzone originale tratto dal film Corrispondente X di King Vidor con Clark Gable, e ascoltate come si sente il suo accento tedesco. You are the first American I've ever met with a soul. It has a strange effect on me. I wasn't figuring on marriage. Lucky for you, I'm the practical one. We must get married. It is the only way we can get permission to leave Russia. Ma poco importa, una bellezza come la sua si perdona tutto, anche di essere dello stesso paese di Hitler. E intanto lei ha divorziato dal primo marito, il mercante d'armi, ha sposato uno sceneggiatore di Hollywood, Gene Markey, ma il matrimonio dura pochissimi mesi perché lei si è innamorata di un altro, l'attore britannico John Lowder, con il quale avrà due figli, Dennis e Anthony. Ascoltate proprio Anthony cosa dice di sua madre. She was such a creative person. Era una persona così creativa, trovava sempre la soluzione per tutto. Se le parlavi di un tuo problema, lei aveva la soluzione. Ad un certo punto voleva lasciare Hollywood e tutto quel mondo, che in realtà non le piaceva affatto. Ed eccoci al colpo d'ala di Eddie Lamar. Noi fino a questo momento abbiamo visto una donna bellissima che usa la sua avvenenza per far carriera nel cinema, sposa uomini influenti, sfrutta il suo fascino straordinario. Ma ricordiamoci che lei è anche una persona dall'intelligenza superiore, ha studiato ingegneria, matematica, conosce diverse lingue, a casa del primo marito sente parlare di armi, di strategie belliche, ha cenato con Mussolini, ha conosciuto Hitler, non ha mai smesso di studiare, l'università l'ha dovuta abbandonare per seguire la sua carriera di attrice, ma i libri li ha sempre portati con sé, magari nascosti nelle famose valigie di Vuitton, regalo di Mayer, ma prima o poi i libri tornano utili. Quando la follia della guerra arriva ai suoi massimi livelli e si iniziano a contare le morti assurde e insensate di milioni di innocenti, un'idea si fa largo nella sua mente, non in quella dell'attrice, ma in quella della scienziata. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di una donna bellissima che ha fatto innamorare il mondo e contemporaneamente di una scienziata, di una donna dall'intelligenza superiore, austriaca di nascita, statunitense di adozione. Stiamo raccontando Hedy Lamarr, che non è solo la diva di Hollywood acclamata per la sua bellezza mozzafiato e per una serie di film a fianco di attori famosissimi. Stiamo parlando di una sorprendente inventrice il cui genio progressista non viene compreso subito dai suoi contemporanei, ma porterà poi a applicazioni delle quali noi tutti oggi non possiamo fare a meno, come il wireless, il GPS e le comunicazioni di telefonia mobile. Una rivincita senza prezzo per una donna definita la più bella attrice del mondo, ma il cui desiderio di un'intera vita è stato il riconoscimento del suo incredibile cervello. Quando la Seconda Guerra Mondiale comincia a mostrare i suoi effetti devastanti in Europa, Hedy Lamarr, che nessuno sa essere anche una grandissima mente matematica, decide che è venuto il momento di impegnarsi, di fare qualcosa affinché la guerra possa concludersi al più presto. Sembrerebbe una decisione folle, cosa c'entra lei, un'attrice, col conflitto bellico? Però va detto che la comunità austriaca di Los Angeles si mobilita in maniera massiccia contro il nemico, contro Hitler e il nazismo. Anche lei sente di dover fare qualcosa. Lei ha alle spalle anni di ingegneria, è ossessionata dai discorsi ascoltati per anni a casa del primo marito Fritz Mandl, vi ricordate, il mercante d'armi. Tra le varie cose si ricorda di un certo discorso sulle possibilità di teleguidare gli ordigni, per esempio i missili, un fatto che le torna in mente quando sente la terribile notizia di un gruppo di scolari uccisi durante una gita da un ordigno deviato dal nemico. Ascoltiamo Kay Noske, esperta di storia di Hollywood. Hedy era molto intelligente, una donna piena di risorse e molto creativa. Tra un film e l'altro, soprattutto negli anni 30 e 40, aveva del tempo libero e aveva allestito in una stanza della sua casa un angolo dell'inventore, dove aveva un grande tavolo da disegno tecnico con tutte le attrezzature e si divertiva. Più di una volta aveva messo a punto delle armi segrete e aveva contattato il governo proponendo le sue idee. Essendo stata moglie di un commerciante di armi, di cose ne sapeva. Seduta al tavolo da pranzo durante i party organizzati dal primo marito, aveva assistito a molte conversazioni sull'argomento. Come sappiamo, Mussolini era spesso loro ospite. Lei ha in mente un'idea e ci sta riflettendo da tempo: contrastare i segnali trasmessi dal nemico nel tentativo di bloccare il telecontrollo di un ordigno, per esempio di un siluro. Lei sa che la trasmissione di onde radio può essere trasferita da un canale all'altro, si immagina che in qualche maniera si possa saltellare da una frequenza all'altra secondo uno schema prestabilito, in modo da disorientare il nemico che cerca di intercettare la frequenza di telecontrollo. Non sa come fare fisicamente a realizzare tutto questo. L'idea c'è, ma non c'è l'applicazione. L'applicazione che lei trova è una delle più fantasiose. Quello che sentite è Ballet Mécanique, un'opera di George Antheil, un compositore d'avanguardia statunitense, il cattivo ragazzo della musica, noto per composizioni avanguardiste, per le sue cacofoniche celebrazioni della meccanica. George Antheil compone il Ballet Meccanico utilizzando pianoforti meccanici, le pianole che hanno quei rulli perforati che suonano da sole, riesce a sincronizzare una serie di pianole e ottiene quest'opera complessa e articolata. Bene, Hedy Lamarr conosce Antheil a casa di amici durante una cena. Lui ovviamente rimane strabiliato, la sua bellezza lo ammalia, anche se i suoi gusti sono abbastanza ambigui, è sposato ma è un bisessuale tendente all'omosessuale, insomma ne conosciamo, ma tanto anche Eddie dichiara più volte con candore di essere attirata anche dalle donne, quindi sono pari, insomma i due si conoscono e lei si mostra molto più interessata alle composizioni meccaniche del pianista che non al pianista stesso. È talmente interessata che quando se ne va lascia scritto col rossetto sul cofano dell'auto di Antelli il suo numero di telefono. Il giorno dopo il pianista la chiama, si accordano per vedersi a casa e quello che lo attende è inaspettato. Eddie Lamar, la bellissima Eddie Lamar, mostra a George il suo angolo dell'inventore e gli comunica il suo senso di disagio come europea che se ne sta tranquilla a Hollywood mentre la sua terra è dilaniata. Gli confida anche che sa molte cose di munizioni, questioni militari, armi segrete, e c'è un'idea che lui trova fantastica, è proprio quella che Eddie sta cercando di realizzare: la creazione di un sistema che permetta ai siluri telecomandati di saltare da una frequenza all'altra per non essere intercettati dai nemici. Guardate un po', Eddie con questa sua bellissima testa è stata solleticata dalle pianole meccaniche usate da Antail. E così i due si mettono al lavoro, per settimane si incontrano e realizzano una versione tecnologica della banda perforata delle pianole che permetta una rapida variazione di frequenze, 88 come i tasti del pianoforte, che verrà in seguito denominata Frequency Hopping Spread Spectrum. Il 10 giugno del 41 Eddie Kistler e George Antail presentano il loro progetto all'ufficio brevetti e l'11 agosto del 42 viene concesso il brevetto numero 2292387 per la durata di 17 anni. Questo però non significa che i militari prendono in considerazione questa invenzione. Ascoltate il biografo di Eddie Lamar, Richard Rhodes. L'idea di Eddie era che se tu fai in modo che sia il trasmettitore che il ricevitore saltino simultaneamente da una frequenza all'altra, allora chi tenti di intercettare il segnale non saprebbe dove si trovano. Quando i responsabili della Marina furono messi a conoscenza dell'invenzione, dissero: «Cosa? Volete mettere un pianista sopra un siluro? Ma non funzionerà!» La risposta della Marina fu: «Cara Eddie Lamar, lei dovrebbe impegnarsi nella raccolta fondi per la guerra. Ecco cosa dovrebbe fare, invece di perdere tempo con queste stupide invenzioni.» Beh, questo insomma conferma il fatto che gli americani ragionino da sempre a compartimenti stagni, quindi per loro una donna bellissima deve rimanere una donna bellissima. È impossibile che una donna del genere possa mettersi a inventare insieme a un pianista mezzo pazzo qualcosa che potrebbe cambiare la guerra a loro favore. Va bene, non ci meravigliamo. Poi, tra l'altro, lei è anche austriaca, quindi in teoria non ha nemica, insomma non c'è da fidarsi. E così il Secret Communication System, ideato da Eddie Lamar e George Antail, viene ovviamente accantonato. E intanto arriva Pearl Harbor, gli Stati Uniti sono in guerra e lei ha accantonato il suo progetto, ha soffocato le sue velleità di inventrice, continua la sua carriera a Hollywood, che in realtà non si è mai interrotta. Recita con James Stewart in 3 film e rifiuta il ruolo di protagonista in Casablanca perché è una produzione Warner Bros. E Meyer si rifiuta di prestarla ai rivali. Peccato, però tiene la parte della bella Mervyn Miles in quello che è considerato il più bel film di King Vidor, il molto onorevole Mr. Pulham. Con la fine della guerra intensifica le sue produzioni, recita in Gente Allegra, Crepi l'astrologo, La schiava del male, Disonorata, fino ad arrivare al 49, a quello che forse è il suo film più famoso, Sansone e Dalila, di Cecil DeMille. Dimmi il segreto della tua forza. Avrai sempre questa forza. Fino a quando avrò fede nell'Onnipotente. Tanto tempo fa sono stato consacrato a lui. Da un voto hai preso la tua forza. Un voto mantenuto in segreto. Rammenti il leone che uccisi. Ah, non l'ho scordato. La forza del leone lo impone come re fra le bestie. La criniera che lo ricopre è il simbolo del suo potere. Il segno della potenza. Sansone, ma i tuoi capelli e la tua potenza. E in questo film Hedy Lamarr è bravissima a interpretare Dalila, che tradisce Sansone, che si fa rivelare il segreto della sua forza soprannaturale, il segreto che è nei suoi folti capelli, poi glieli taglia e lo riduce in schiavitù, insomma un ruolo che le è congeniale, da ammaliatrice e da donna perversa e crudele, perché anche nella vita vera la si può definire una vera e propria mangiatrice di uomini. Abbandona il terzo marito, John Loder, sposa il ricco svizzero Teddy Stauffer, si trasferisce ad Acapulco, in Messico, dove lui gestisce un famoso nightclub, l'anno dopo divorzia, torna coi figli a Los Angeles e in quel periodo, nel 52, fa un viaggio a Roma dove ha un chiacchierato flirt con Gianni Agnelli, si parla di un possibile fidanzamento, poi non se ne fa più nulla, anche perché nel frattempo lei ha conosciuto il magnate texano Howard Lee, che le promette di finanziare i suoi progetti cinematografici, così lei se lo sposa e arriviamo al quinto matrimonio e la coppia va a vivere a Houston in Texas. Sono gli ultimi anni in cui Hedy Lamarr recita, i film sono L'amante di Pari, dell'inferno ci accusa e L'animale femmina del 57, che sarà la sua ultima apparizione sul grande schermo. Da quel momento l'attrice compare solamente in televisione, nei salotti dedicati al gossip o alla storia del cinema, è un viale del tramonto che la fa soffrire moltissimo, d'altra parte ha superato i 40 anni, il ruolo della ammaliatrice inizia a andarle un po' stretto, divorzia ancora una volta, si risposa, il sesto marito è un avvocato col quale resisterà solo un paio d'anni, nel 62 Hedy Lamarr vive la sua personalissima rivincita, perché la tecnica da lei ideata con Antheil, che nel frattempo è morto, viene adottata negli Stati Uniti come sistema di comunicazione a bordo di tutte le navi impegnate nel blocco di Cuba. Ma essendo passati 3 anni dalla scadenza del brevetto, lei non ci guadagna neanche un dollaro. E nell'85, quando alla sua invenzione viene tolta la qualifica di segreto militare, il nascente sviluppo della telefonia cellulare la utilizza come standard tecnologico. Oggi tutti telefoniamo anche grazie a lei, all'invenzione di Hedy Lamarr, come ci ricorda il suo biografo Richard Rhodes. Oggi il frequency hopping è usato per i telefoni wireless che abbiamo nelle nostre case, per i GPS e nella maggior parte delle comunicazioni militari. È molto diffuso. Eh sì, perché sollevato dal segreto militare, il frequency hopping inizia a fare il giro del mondo, la notizia si diffonde, all'attrice arrivano i primi riconoscimenti, quello della Lockheed, quello della Electronic Frontier Foundation, quello dell'Inventors Club of America e infine nel 98 Hedy Lamarr viene insignita della medaglia Kaplan, la più prestigiosa onorificenza austriaca per un inventore, in suo onore il 9 novembre, giorno della sua nascita, e viene proclamato la giornata dell'inventore. Vince una causa contro la Corel Corporation, che usa il suo volto per la pubblicità di un software di grafica vettoriale, ottiene un risarcimento di 5 milioni di dollari. Muore nella sua casa di Orlando in Florida, 86 anni, per un improvviso attacco cardiaco. 19 gennaio del 2000, muore davanti alla televisione con una maschera di bellezza sul viso. Ci sono persone che hanno dato un colpo d'ala, più di uno, ma persone che hanno saputo esprimersi e volare in alto in due territori così lontani come quello, diciamo, della bellezza cinematografica e quello della scienza, sono veramente poche. La storia di Hedy Lamarr è una storia incredibile e meravigliosa e ognuno di noi nella sua vita può cadere, può dare il colpo d'ala e può anche fare più di un mestiere, ma lì bisogna veramente sapere volare tanto. E se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, cioè il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarmi, a cercarci, Facebook, Twitter, social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.